perdute speranze, rinascer tutte dentro il mio sen vi sento. Andiamo, figlia. Dove? Al tempio, alle nozze dei principe Numia. Dei? Ma come sollecito così? Non soffre in dubbio la nostra sorte. Ora ci invito, allora forse il prince non giunse. Mio fedele già corse ad affrettarlo. Ah, che tormento! Detto resta, signor! Sarai contento? Vieni, o principe, andiamo a compir l'Imeneo. Potea più pronto donar quanto promisi. Sì, grondono è poco il sangue mio, ma se pur vuol che si renda più grato, l'altra ora di ferirlo ti piaccia. Oggi si tratta grave un parco nemici, e il nuovo giorno tocco e piacevo consacro sentivo. No, già fumano l'are, son raccolti i ministri, ed importuna sarebbe ogni dimora. Marzia, dette giovane, mi chiedi ancora. Ma qual freddezza è questa? Io non l'intendo. Fosse Marzia l'audace che si oppone ai tuoi voti. Io, per gli erbace, no, sono io che te prego. Ah, qualche arcano qui si nasconde. Arbace, non ti sarebbe già tornato in mente che nascesti africano? Un attaccatone, tutto sto curvo, eppure... Eppure assai diverso, io ti credea! Vedrai! Fidi abbastanza, e nulla ormai più da veder m'avanza. Provere più crudele, e trovi il resto per appagarti. Ad obbedirmi, Arbace, incominciassi appena, e mi rinfacci, e ne fai sì gran pompa.